Birgitta. Jacob la spinse contro il muro. «Cosa ci fai nel mio studio?» Non poteva essere sveglio. Era impossibile. Gli aveva sciolto due sonniferi nel whisky. Che non lo avesse bevuto? Lui la mise dritta, caricò il colpo e lo sferrò. Quando il pugno le colpì il ventre, tutta l'aria le uscì dai polmoni. Birgitta si accasciò a terra mentre Jacob la guardava disgustato. «Mi spii? Brutta stronza, ti ho detto 1000 volte che non devi entrare nel mio studio!» Non le lasciò il tempo di rispondere. Quando i calci cominciarono a pioverle addosso, lei alzò le braccia per proteggersi. Jacob si ammaccò un alluce contro il gomito della moglie e fece una smorfia di dolore con gli occhi lampeggianti di rabbia. La donna che doveva accendere la candela e assicurarsi che le carte prendessero fuoco sarebbe dovuta arrivare da un momento all'altro, anzi, forse era già in casa. Ma cosa avrebbe potuto fare? Ovviamente sarebbe scappata. Birgitta non poteva certo rimproverarglielo. «Ti prego, Jacob!» Suo marito si chinò su di lei e la tirò su per i capelli. Birgitta si ritrovò in ginocchio, gemendo pietosamente. «La cinta!» sibilò lui. «Qui ci vuole la cinta, brutta cagna!» La lasciò andare e chiuse le tende.